Il programma è molto ricco perché in realtà comincia da lunedì 23 aprile con una serie di incontri a Marzabotto alla Casa della Cultura e della Memoria. Alle 17.30 la presentazione del racconto illustrato La strada dell'asino. C'è un incontro con Rashid, che è un richiedente asilo pakistano, e quindi credo che sia una buona occasione per incontrare, insomma, queste persone che ci vengono sempre presentate come molto paurose, ma sono persone, e quindi credo che valga la pena partecipare. Per poi passare a martedì 24 aprile alle 18, appunto sempre alla Casa della Cultura e della Memoria, per la presentazione del libro Fascismo e tortura a Bologna, la violenza fascista durante il regime e la Repubblica Sociale Italiana, di Renato Sasdelli. Questo è più locale, è più storico, ma penso che sia sempre molto interessante, insomma, addentrarsi nei meandri della nostra città. Tutto per arrivare ovviamente alla grande giornata di mercoledì 25 aprile qui a Montesole, e quindi vi aspettiamo alle 10.30 per l'inizio delle orazioni ufficiali, perché quest'anno è stata scelta la partecipazione della società civile, non so come dire, nel senso che le orazioni ufficiali saranno tenute da Gabriele Del Grande, giornalista, scrittore, che sarà poi a Montesole per tutta la giornata e nel pomeriggio farà la presentazione del suo nuovo libro d'aula, e poi sarà nostra ospite e nostra compagna Lidia Menapace, definita sui nostri volantini partigiana, politica e saggista. Io penso che sia una grande donna, quindi probabilmente vale la pena di ascoltare anche lei. E poi il pomeriggio è ricchissimo come sempre, a partire dalla musica e dagli incontri che si svolgeranno nel prato antistante il Poggiolo. Abbiamo un ricco elenco di gruppi che verranno con noi, appunto, per farci trascorrere il pomeriggio in allegria e anche un po' di impegno e riflessione. Mi piace segnalare, a parte gli Yo-Yo Mundi, il vincitore del contest Montesole Free Music Festival di quest'anno, che è un rapper bolognese, Sonboy. L'abbiamo trovato interessante, quindi vi invitiamo a venirlo a sentire. Tra una canzone e l'altra ci saranno Gino Strada e Maurizio Landini a invitarci, appunto, a pensare, e come dicevo prima, alla Scuola di Pace ci sarà prima Gabriele Del Grande e poi la presentazione di una serie di fotografie e del lavoro di ricerca che hanno fatto Lorenzo Balbo e Luca Vannelli, Il nostro ritorno a Ventimiglia, e hanno, insomma, ragionato su che cosa significa Europa, accoglienza e immigrazione in tempi di chiusura di confini. Ci sono a mezzogiorno, si può fare la visita guidata al memoriale, sempre con noi. Alle 13.30 invece partirà lo spettacolo dal Poggiolo della nave Europa, che ci porterà sempre sui luoghi della strage. A Caprara alle 14 si può cantare e ballare con i Biasanotte. Quindi, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Ovviamente, come al solito, c'è il servizio di navetta che porta poi su a Montesole per evitare di intasare, no, il traffico. Sì, a partire dalle 9 fino alle 20. Servizio continuo, quindi vi invitiamo a fare anche una scelta ecologica. Treno più autobus, direi che è la scelta migliore. Balza all'occhio quest'anno l'assenza di figure politiche in senso stretto, insomma, partitiche o istituzionali. Perché questa scelta? È da tanto che il tavolo ragiona sull'opportunità di dare spazio ai cittadini. È vero che i politici e le istituzioni sono cittadini che dovrebbero rappresentarci, ma in realtà pensiamo che di fatto la liberazione, quando avvenne, non fu fatta solo da politici e istituzioni, ma da cittadine e cittadini che si impegnavano. E quindi abbiamo colto la palla al balzo, diciamo così, dell'imminenza delle elezioni, dove era difficile impegnare le cariche istituzionali per una data non sapendo poi come sarebbe andata, per valorizzare questa lettura della resistenza e della festa della liberazione, cioè di un qualcosa che appunto riguarda tutte e tutti, non solo le alte cariche dello Stato, insomma.